Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sono stato tra i fondatori del Partito Democratico, mi sono battuto con chi non ha creduto in quel progetto e oggi vedo che si sta realizzando, vedo che finalmente abbiamo un partito che può puntare a raggiungere il 50%. Niente po' di meno, anche Nardella, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, sindaco di Firenze, è sicurissimo della crescita, dell'avanzare senza sosta del PD di Renzi, addirittura parla di un possibile 50%. Potete anche esprimere le vostre opinioni su questo, stasera ci sono tante notizie come sempre, ma questo potrebbe essere uno degli argomenti. Gli sms al 349-238-6666, tutti gli altri commenti in libertà invece sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra le altre notizie, visto che siamo in tema di PD, Renzi dice niente voto anticipato alle urne nel 2018, si voterà quindi, siccome c'erano voci ricorrenti sul 2015 come data, anno in cui si dovrebbe votare, invece lui oggi ha detto no, 2018. Poi dice anche, ha fatto questa dichiarazione, non bastano 6 mesi per la ripresa, ma certo già la prossima primavera vedremo il paese ripartire, quindi fiduciosi con l'alzarsi delle rondini ci involeremo anche noi. E poi l'Istat, che con una ricerca fatta insieme al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, certifica che gli italiani sono più fiduciosi sulla restituzione di un portafoglio perso rispetto agli stranieri in Italia. Nello stesso paese, gli italiani sono molto fiduciosi, le donne ancora di più, che possa essere restituito, specie se trovato dalle forze dell'ordine. Però adesso, al di là delle varie notizie così volanti, sentiamo le più importanti. Il processo per la trattativa Stato-mafia, Napolitano risponde a tutto e dice mai saputo di accordi indicibili e auspica la massima trasparenza. La legge di stabilità, nessuna bocciatura per l'Italia da parte dell'Unione Europea, che si riserva un giudizio più approfondito a novembre. Expo, le mani dell'Andrangheta nei subappalti, 13 arresti, la PM Boccassini commenta non è cambiato nulla. Rapporto Svimez, al sud più morti che nati, non era così dal 1861. L'ira di Zeffirelli contro la Scala, la mia Ida dice venduta al Kazakistan, pronto alle vie legali. Unioni civili, stravince il sì nella consultazione online indetta dal Movimento 5 Stelle per le unioni gay. Calcio, nessun calciatore italiano in corsa per il Pallone d'Oro 2014. E partiamo quindi dal processo per la presunta trattativa Stato-mafia che sarebbe avvenuta all'inizio degli anni 90 per fermare le stragi mafiose. Oggi è stato il giorno dell'atteso interrogatorio del Presidente della Repubblica Napolitano. Il Capo dello Stato ha risposto alle domande al Quirinale, sia del PM sia a quelle attese dell'avvocato di Riina. Però di questo argomento parleremo in modo più approfondito dopo, anche con un avvocato che era presente oggi all'udienza. Sentiamo però quali sono state le reazioni politiche. Quella di Napolitano è stata una lezione di democrazia. Sono in molti nel Partito Democratico a commentare così la decisione del Presidente della Repubblica di rispondere alle domande di giudici e avvocati nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Quello che poteva essere un giorno difficile si è trasformato in un'ulteriore conferma di fedeltà ai valori della Costituzione, afferma il vice segretario Guerini, che ringrazia il Capo dello Stato per aver messo ancora una volta al primo posto il rispetto per le istituzioni e per l'autonomia della magistratura. Con grande serenità la massima carica dello Stato ha dato un esempio di rispetto istituzionale e ha svolto con limpidezza e grande dignità il suo dovere di cittadino, aggiunge il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio. Un duro attacco arriva invece ancora una volta dal Movimento 5 Stelle, secondo il quale la priorità di Napolitano non è quella di contribuire alla ricerca della verità sulla terribile stagione delle bombe e la sua deposizione incrementa soltanto dubbi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo adesso della legge di stabilità. L'Italia ha evitato la bocciatura, nessuna grave deviazione dalle regole del patto di stabilità nella legge di stabilità italiana e francese. Questo è quanto fa sapere la Commissione europea e Bruxelles si riserva però il giudizio più approfondito a novembre, quando valuterà anche eventuali mancanze o rischi. Via libera quindi di Bruxelles alla legge di stabilità italiana dopo l'impegno del governo a correggere il deficit strutturale dello 0,3% rispetto ai piani iniziali. Nel frattempo dunque oggi il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio ha dato il via libera all'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica. La nota di aggiornamento al DEF dovrà poi tornare alle Camere per una nuova approvazione. La politica dopo l'insediamento di Federica Mogherini a capo della diplomazia europea. Tra i possibili successori della ministra degli esteri emerge il nome della giovane deputata PD Lia Quartapelle. La parlamentare di 32 anni, le cui quotazioni avrebbero superato quelle di nomi più autorevoli come l'attuale sottosegretario agli esteri Lapo Pistelli, è stata a lungo ricercatrice dell'ISPI, per cui ha coordinato il programma Africa. E ora le mani dell''Ndrangheta non solo su Milano ma anche sulla Brianza. A verificare, a certificare la persistenza di un pericoloso filo rosso tra Calabria e diverse province lombarde è un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia coordinata dalla procuratrice Boccassini. Pronto? Se va ancora a cercare mio figlio, l'Antonio, io gli sparo in testa. È grazie ad intercettazioni come questa, insieme a pedinamenti, microspie, che nelle ultime ore sono scattate le manette per 13 persone, tra uomini e 'ndrangheta e imprenditori, nelle province di Milano, Como, Monza Brianza, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere di stampo mafioso al concorso esterno, dall'estorsione alla detenzione di armi. In carcere, tra gli altri, Luigi Addisi, consigliere comunale PD di Rho, dove sta sorgendo il sito Expo, imparentato con la cosca Mancuso, accusato di aver reso edificabile un terreno superato i vincoli grazie all'incarico nell'amministrazione comunale e a 300.000 euro provenienti dalle attività dei clan di Vibo Valentia. In manette anche diversi membri del clan Galati, radicato nel comune di Cabiate, nel Comasco, una cui impresa di famiglia era riuscita addirittura ad ottenere la certificazione antimafia per lavorare in due subappalti Expo. Il procuratore aggiunto, Ilda Boccassini, che ha coordinato l'inchiesta, denominata Quadrifoglio. Nel momento in cui si è fatta l'istruttoria per i subappalti, si è controllato soltanto chi erano gli attuali tutti incensurati, ma bastava fare uno storico per vedere che fino a qualche mese prima c'era una persona con reati gravissimi. Tra gli arrestati anche il boss Salvatore Muscatello, 80 anni, già condannato quale capo mafioso nella precedente operazione Infinito. A riprova, secondo Ilda Boccassini, che per quanto riguarda il potere dell''Ndrangheta in Lombardia, nulla è cambiato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora Ebola. Ci sono altri militari americani che arriveranno a Vicenza. Ne abbiamo parlato ieri, dalle aree dell'Africa colpite dall'Ebola, e oggi il comando americano ha rassicurato. La scelta di rientrare a Vicenza è stata presa dai vertici militari americani. Noi abbiamo obbedito agli ordini. Così ha cercato di smorzare le polemiche Derry Williams, comandante delle forze armate statunitensi in Liberia, che da domenica sera si trova in isolamento insieme ai suoi 10 militari nella caserma del DIN. Il generale ha in sostanza risposto al governatore del Veneto, che aveva detto gli americani devono fare la quarantena a casa loro. Ma i soldati hanno rassicurato, stanno bene, non mostrano sintomi, sono solo precauzioni. Ha spiegato il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi. È in corso un protocollo americano di alta precauzione e sensibilità, per cui il personale militare è stato messo in una sorta di isolamento precauzionale all'interno della caserma sede. Ma anche se la situazione è normale, quest'anno la base americana vicentina non aprirà le porte ai bambini per la classica festa di Halloween del 31 ottobre. In compenso, tra domani e sabato sono in arrivo dall'Africa altri 60-70 soldati statunitensi. Livia Zancanera, Radio 24, Sole 24 Ore. Parliamo anche di uno sciopero che potrebbe creare non pochi problemi. Interventi chirurgici programmati, attività ambulatoriali a rischio lunedì prossimo 3 novembre. Sarà infatti lo sciopero degli infermieri pubblici. Al centro della protesta il blocco del turnover e quello contrattuale. E la crisi cambia l'Italia, soprattutto il sud, non solo economicamente. Secondo il rapporto Svimez, nel 2013 al sud ci sono stati più morti che nati, come al tempo della Grande Guerra. Di questo parleremo, perché è veramente uno sconvolgimento antropologico, si potrebbe dire. Ne parleremo tra poco. Ora invece parliamo di Franco Zeffirelli, che si scaglia contro il Teatro La Scala e i diritti di un suo allestimento ceduti al Kazakistan, e lui minaccia di fare causa. Il maestro non ci sta e parla di una sorta di vendetta. È arrabbiato Franco Zeffirelli per l'esclusione della sua Ida del 2006, cacciata dal repertorio scaligero e venduta al Kazakistan. Lo sfogo è contenuto in una lettera aperta in cui si chiedono chiarimenti sulla vicenda. L'allestimento era infatti di esclusiva proprietà del Teatro Milanese e ora Zeffirelli adombra, appunto, una vendetta da parte dei cervelloni della Scala, che stanno pensando a lui come un artista da dimenticare. Il Teatro Milanese risponde con incredulità e amarezza. Nel teatro di Astana la Ida debutterà il 19 novembre e sarà inizialmente in scena per 3 rappresentazioni. E nella cessione dei diritti, spiega la Scala, i titolari, lo stesso Zeffirelli e il costumista Maurizio Millenotti, sono stati contattati perché ricevano quanto loro spetta. L'accordo di vendita prevede inoltre che Astana metta a disposizione gratuitamente della Scala l'allestimento se vorrà metterlo in scena in futuro. Questo allestimento di Aida, entrato nella storia alla seconda rappresentazione quando il tenore Roberto Alagna abbandonò il palco indispettito dai fischi del pubblico è stato ripreso oltre 30 volte dal 2006. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura c'è lo sport. Con il calcio, nessun giocatore italiano che è candidato al pallone d'oro, è vero Dario Ricci? Confermo cara Roberta, un po' inevitabile però nell'anno del mondiale. Beh, no? Dice, purtroppo non si è visto nulla di buono, il mondiale è stato negativo e quindi chiaramente i nostri... di solito ci sono sempre Buffon, Pirlo che fanno buona figura, o magari chissà, sarebbe stato bello vedere Balotelli, non è proprio aria. Però ci abbiamo gli allenatori, Conte e Ancelotti che ha portato il Real Madrid alla decima Coppa Campioni Champions League della sua storia, che sono in corsa per il titolo di riconoscimento di allenatore dell'anno. Quindi, è già insomma, qualcosa. I piedi non saranno buonissimi, almeno la testa. Funziona. Senti, invece ci sono notizie anche per l'NBA, canestro americana. Stanotte a luna di notte italiana, tutti col caffè pronti perché comincia il nuovo campionato. Protagonisti qui San Antonio Spurs che hanno vinto il titolo, che affrontano Dallas e che hanno tanto di italiano perché c'è Marco Bellinelli in campo, Ettore Messina l'assistente allenatore. Poi oggi, oltre alla partita contro Dallas, c'è la cerimonia di consegna dell'anello, che è il rito più bello. Non è che si sposano? No, niente baci, niente cose. Ma che cosa succede? Viene consegnato ufficialmente quello che è il riconoscimento appunto ufficiale ai campioni in carica. La squadra, in questo caso di San Antonio, riceve dal commissioner, dal presidente dell'NBA, l'anello appunto di campioni. Un anello per ciascun giocatore. Sì, per ciascun giocatore di brillanti, un po' pacchiano onestamente, un po' pacchiano, ma chiaramente magari... Ma poi se lo portano? Sì, se lo portano a casa, insomma, metteranno... A casa se lo portano, poi non si sa se lo mettono. In una cassetta di sicurezza. Ecco, ti ho detto. Un diamante per sempre, comunque, se ecco, dentro la cassetta di sicurezza. Ce n'è pure qualcuno in più, quindi. Molto bene, caro Dario Ricci, così abbiamo scoperto anche che questi vincono l'anello. Non preferirebbero un'altra cosa, no? L'anello di diamanti, questa guarda, è la tradizione. Le altre cose poi se lo possono rivendere, certo, dice, sì, non c'è bisogno poi di... Quello là è la cosa che vale la tradizione. Più di tutte. Sì, esatto. Bel riconoscimento. Grazie Dario Ricci. Grazie a voi. Ciao Dario. E poi voglio leggere brevemente alcuni dei vostri messaggi intanto. Davide che dice, a proposito di Nardella, dell'affermazione che ha fatto il PD potrebbe arrivare tranquillamente al 50%, dice Nardella, come altri hanno i prosciutti sugli occhi perché forse non hanno capito che se il PD e più che altro Renzi continua a fare decreti inutili, per la crescita si andrà al voto. Mi scuso, che anche un bel raffreddore oggi. E poi invece sulla pagina di Effetto Notte, la pagina Facebook, diversi messaggi su la consultazione online che ha fatto il Movimento 5 Stelle, di cui parleremo tra poco, sulle unioni civili per i gay, se gli elettori erano favorevoli oppure no. State rispondendo anche voi. Francesca dice, ciao Roberta, sono favorevole per quanto riguarda le coppie omosessuali, non hanno alcun strumento di tutela giuridica ed è giusto che lo si introduca. Diversa a mio parere la questione per le coppie eterosessuali, dice, che dispongono già del matrimonio civile. Aggiornamenti per chi viaggia tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Stavo guardando varie altre notizie, per esempio il vice segretario del PD Guerini, che dice il prossimo anno ci saranno le leggi sulle unioni civili e sullo ius soli, forse anche un po' sollecitati da, per esempio, le aperture di questi giorni di Berlusconi sulle unioni civili, sulle unioni gay, e poi anche da questa consultazione, forse, vabbè, che è arrivata in realtà dopo, del Movimento 5 Stelle, di cui parleremo dopo. Adesso però vi ricordo, potete continuare naturalmente a scrivere le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte o attraverso gli sms al 349-238-6666. Per esempio c'è Alberto da Cremona che scrive, con Renzi finalmente sono riuscito a credere nuovamente nella politica dopo più di 20 anni di sfiducia totale in tutti i partiti. Quindi un messaggio opposto a quello di prima a proposito dell'affermazione di Nardella. Dicevamo le notizie. L'Europa promuove la manovra italiana, nessuna grave deviazione, dice Renzi, assicura a primavera l'Italia riparte. Napolitano al processo per la trattativa Stato-mafia risponde a tutto, mai saputo di accordi indicibili, una deposizione di 3 ore, ora dice trasparenza. 'Ndrangheta nei subappalti legati all'Expo, 13 arresti e poi proiettili affari e politica nella carta dell'inchiesta. Al sud più morti che nati, è il settimo anno di recessione, questo è il rapporto svedese Gremiz, di cui parleremo dopo, e poi il Papa, che ha fatto questa affermazione, dice: io comunista, amore per i poveri e cuore del Vangelo, e nessun lavoratore resti senza diritti. Ebola, rientro a Vicenza dei soldati americani, deciso dal Pentagono. Il presidente di Regione Zaia dice: la quarantena la facciano a casa loro. Anche il Movimento 5 Stelle dice: rispediamoli negli Stati Uniti. E poi Zeffirelli contro la Scala: mi dimentica, dice, pronto le vie legali, la mia Ida cacciata dal repertorio e venduta al Kazakistan. Prima di affrontare il prossimo tema, però, vedo un sorridente, come sempre, Crozza sulla 7. Sentiamo che punto lo prendiamo. Che abbiamo, eh? Da quando esiste è stata una discussione continua. PSIUP, PUDUP, DP, PCD. E forse per capire tutte queste scissioni non serve nemmeno la politica. Forse dovrebbe venirci in soccorso la scienza. Che cosa? Cosa diceva? Cos'è la scienza? Cos'è? Pensate, cos'è la scissione per la scienza? C'eravamo io, Frago, Avac, Benjamin e Civati. Questo dovrebbe essere Zichichi, insomma, nella voce. Frago. E lui dice: no, no, è Benjamin. Ma Benjamin era già scappato con Vendola, pensate. Ecco, e alla Leopolda chi ci va? Prendete un elemento chimico pesante, prendete il PD, ora scindetelo. L'avete scisso? Si è liberata energia? No, però ci siamo liberati di Fassina. Pensate alla forza della Leopolda. Cosa dice il teorema del Nazareno? Un corpo immerso nella Leopolda riceve una spinta da sinistra verso l'estrema destra pari al peso del patto con un condannato. E questa è scienza? No, questa è l'Italia. Beh, fermiamoci. E notizia tra le più importanti di oggi, se non la più importante, che c'è stata l'attesa deposizione al Quirinale del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell'ambito del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, che sarebbe avvenuta nei primi anni 90. I membri della Corte d'Assise di Palermo si sono trasferiti a Roma in Quirinale per raccogliere appunto la testimonianza del Capo dello Stato, che è chiamato a raccontare quanto gli disse il suo consigliere giuridico, che poi morì di infarto nel 2012, Loris D'Ambrosio, a proposito di presunti rapporti tra Cosa Nostra e le istituzioni, a riferire su un attentato progettato contro di lui nel 1993. Quanto testimoniato da Politano dovrebbe essere reso noto però nei prossimi giorni, ma ci sono già delle indiscrezioni, vero Raffaella Calandra, la nostra inviata? Beh, più che indiscrezioni c'è il lavoro che tutti quanti noi abbiamo fatto per ricostruire quello che è avvenuto all'interno dell'udienza, quindi parlando con tutte le persone che hanno partecipato all'udienza, avvocati, e quindi ricostruendo nel modo più preciso possibile, sentendo tutti gli avvocati, sentendo i PM, insomma sentendo tutte le persone che hanno partecipato all'udienza, tutto quello che è successo. E quindi le cose principali dette da Napolitano, pare che la cosa più importante sia che lui non ne sapesse nulla, insomma, di questa trattativa, di questi accordi tra istituzioni e Cosa Nostra, Raffaella. Allora, Napolitano rispondeva, a proposito, come dicevi prima, della lettera della sua consigliere Loris D'Ambrosio, una lettera in cui si esprimeva il timore di essere stato un inutile ed ingenuo scriba, diceva D'Ambrosio, per indicibili accordi. È da qui che è partito l'interrogatorio ed è qui che Napolitano ha detto di non aver mai saputo di accordi tra uomini dello Stato e clan, o meglio, che D'Ambrosio, anche lui, da parte sua, quelle che lui aveva erano soltanto ipotesi. Perché se avesse avuto altro sarebbe andato alle autorità giudiziarie, ha detto Napolitano a proposito di D'Ambrosio. Quindi nessuna informazione relativa a presunti accordi o contatti tra uomini dello Stato e clan, ma anche da parte di D'Ambrosio, secondo Napolitano, quelle parole erano il frutto anche delle pressioni, delle tensioni che in quel momento D'Ambrosio aveva per la campagna mediatica nei suoi confronti dopo la pubblicazione delle intercettazioni con l'ex ministro Nicola Mancino, qui imputato nel processo. Quindi è a quel preciso perimetro che vanno ricondotte le parole di D'Ambrosio, secondo il capo dello Stato, e a quella stagione del 92-93, che è, secondo i PM di Palermo, il cuore, diciamo, il momento clou della presunta trattativa che invece sarebbe avvenuto tra uomini dello Stato e dei clan. Dicevamo, Raffaele, è stato anche chiamato a riferire dire Napolitano su un possibile attentato progettato contro di lui e anche contro Spadolini nel 93, no? Esisteva una nota della SISM del 93, che in realtà già agli atti della Procura di Firenze e poi trasmessa a Palermo. Ebbene, Napolitano conferma di essere stato informato di quell'allarme, ma di averlo accolto con imperturbabilità, come chi d'altra parte era stato abituato a vivere anche gli anni del terrorismo. Napolitano nella sua deposizione ha parlato anche del giorno del blackout alla Camera e ha raccontato del timore di Ciampi che fosse in atto un golpe e quindi un colpo di Stato, esatto, perché quelle erano le modalità classiche, diciamo, l'isolamento dei centri nevralgici del potere istituzionale, modalità classiche con cui viene messo in atto un colpo di Stato. Quindi una deposizione che dalle vicende più recenti, quelle a partire dalle polemiche per la lettera di D'Ambrosio del 2012, è andata indietro fino agli anni del 92 e 93. Napolitano ha anche scherzato sulla sua celebre memoria da Pico di Mirandola, esatto. Senti Raffaella, per chiudere, alla fine il procuratore di Palermo ha detto da parte del capo dello Stato c'è stata una grande collaborazione, in sintesi è stato questo. Allora, bisogna ricordare che il Presidente della Repubblica avrebbe innanzitutto potuto sia non a consentire alla sua deposizione, quindi innanzitutto ha dato il consenso alla questa deposizione e non era mai avvenuto che un capo dello Stato in carica fosse ascoltato all'interno di un dibattimento. Bisogna anche dire che lui avrebbe potuto in ogni momento anche revocare questa sua disponibilità anche su alcune precise domande e non l'ha mai fatto, e anzi ha risposto anche ad alcune domande che non erano state, diciamo, ammesse dalla Corte, o meglio su cui erano stati stabiliti anche dei perimetri ben precisi, così come la legge stabilisce in questi casi che avvenga. Quindi da parte di Napolitano c'è stata una disponibilità a rispondere alle domande, pur tenendo ben presente quelle che sono le sue prerogative, anzi più volte ha detto potrei opporre il diniego per motivi di riservatezza legati appunto alle mie prerogative costituzionali, e invece ha risposto alle varie domande. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. E adesso invece continuiamo su questo argomento, ma la testimonianza del presidente è stata raccolta di Napolitano in udienza a porte chiuse, alla quale, come dicevamo, hanno partecipato oltre ai magistrati soltanto i difensori degli imputati e i legali delle parti civili. Tra questi l'avvocato Giovanni Airò Farulla, che saluto e ringrazio di essere in collegamento. Buonasera avvocato. Buonasera. Avvocato del comune di Palermo, perché il comune di Palermo è parte civile in questo? Sì, il Comune di Palermo, come in quasi tutti i processi di mafia, si costituisce parte civile perché la città di Palermo, ahimè, purtroppo per il fenomeno mafioso, è considerata un po' la capitale dovunque nel mondo, e questo chiaramente crea un grosso danno non solo d'immagine ma anche all'economia della città e ai suoi cittadini. Lei quindi ha avuto modo di sentire queste 3 ore di udienza oggi, di questa udienza così particolare, unica nel suo genere, no? Di Napolitano, Presidente della Repubblica, sì, che testimonia davanti a una corte d'appello. È vero che sembra che durante questa udienza non sia mai stata posta in modo diretto la domanda a Napolitano se fosse a conoscenza di accordi tra esponenti delle istituzioni e mafiosi, cioè non c'è mai stata la domanda diretta? Sì, una domanda diretta effettivamente non c'è mai stata, c'è stata qualche domanda indiretta se lui fosse stato mai portato a conoscenza di, per esempio, della teoria saggista di un'ala di Cosa Nostra, e questo lui lo ha confermato, ha detto sì, certo, eravamo a conoscenza che c'era una forma di ricatto, una forma di tensione nei confronti dello Stato fatta da quest'ala stragista. Non ha però mai accennato alla possibilità che organi dello Stato o comunque dei servizi abbiano in qualche modo sceso a trattativa su questa, per alleviare questa pressione da parte di Cosa Nostra nei confronti del potere dello Stato. Ed è vero, avvocato Airò Farulla, che anche non è mai stata utilizzata la parola trattativa? Sì, è vero, questo non è mai stato, si è parlato di accordi ma mai di trattativa. Devo però specificare rispetto al resoconto ottimo e dettagliato che ha fatto la sua collega, sì, che riguardo alla lettera, al contenuto della lettera di D'Ambrosio, che ricordo D'Ambrosio la indirizzò proprio a lui, a Napolitano, al presidente. E il presidente Napolitano ha chiarito che il giorno dopo convocò D'Ambrosio nel suo studio per consegnargli una risposta scritta che lui già aveva elaborato, aveva redatto evidentemente in quelle 24 ore, e che in quell'occasione, su domanda specifica del pubblico ministero, lui ha detto che gli chiese se lui avesse chiesto chiarimenti appunto su questo contenuto particolarmente forte della lettera di D'Ambrosio. Il presidente ha detto no. E però è pure vero che su un'altra domanda che per esempio io ho fatto successivamente, ossia se a parte il contenuto della lettera ci sia stato un colloquio sui fatti con D'Ambrosio, il presidente Napolitano ha detto sì, e però ha opposto in quel caso la riservatezza a lui, per carità dovuta, per i colloqui che lui ha con i suoi collaboratori, quindi diciamo non ci ha voluto raccontare di cosa abbiano parlato, e però confermando che di qualcosa che riguardava quegli avvenimenti di quei giorni, ossia la pressione a cui era stato sottoposto D'Ambrosio per l'interrogatorio della Procura di Palermo, insomma ha confermato che c'è stato un colloquio di cui non ci ha voluto dire nulla. Quindi è stato estremamente collaborativo, ha risposto su tutto, però in realtà dice su questa cosa non è andato fino in fondo, quindi come dice lei fa sorgere il dubbio che qualcosa col suo consigliere giuridico di allora, Loris D'Ambrosio, che poi è morto di infarto nel 2012, qualcosa si erano dette a proposito di questa lettera per cui D'Ambrosio, nella quale si era... Sì. D'altro canto D'Ambrosio era il consigliere giuridico del Capo dello Stato, scrive una lettera al Capo dello Stato dove gli dice che lui sospetta di essere stato un inutile scriba di accordi indicibili. E il Capo dello Stato è normale che possa chiedere, ma scusi, ma lei che cosa intende dire, di che cosa sta parlando? Almeno io mi aspettavo questo. Invece lui dice che non ne hanno parlato, poi ammette che hanno parlato diciamo un po' della vicenda ma più in generale, quindi non del contenuto della lettera, ma non ci ha detto appunto il contenuto di questo racconto. Ciò non toglie che, diceva bene la sua collega, che è stato molto disponibile, che molte volte il presidente della Corte non ammetteva alcune domande e lui nonostante ciò rispondeva alle stesse, dimostrando, per come ha detto, di volere collaborare con la giustizia e di non volerlo ostacolare. Questo bisogna dargliene atto. Senta, però, avvocato Eero Farulla, lei non ha provato, aveva la possibilità di fargli questa ulteriore domanda per levarsi questo dubbio? No, ha detto, però lui ha insistito dicendo che non ne voleva parlare. Nel momento che mi oppone il suo diritto di riservatezza sui colloqui che lui ha con i suoi collaboratori, io non posso insistere, e da ciò che anche il Presidente della Corte mi ha subito bloccato, perché è giusto così, per carità. Secondo lei cos'è la cosa più importante che ha detto oggi Napolitano? Importante rispetto a quello che sapevamo credo nulla, forse una cosa nuova, o comunque ha dato un peso più forte di quello che all'epoca si diede, è stato questo timore del tentativo di colpo di Stato che avvenne appunto quando vennero sabotati o tagliati le telecomunicazioni di Palazzo Chigi, e si parlava anche dell'energia elettrica, non ricordo se alla Camera o al Quirinale. Questo, ha detto Napolitano, è il classico inizio di un colpo di Stato, perché i colpi di Stato iniziano, secondo appunto quello che ovviamente leggiamo negli stati diciamo canaglia più lontani dai nostri e meno democratici, iniziano proprio con l'interruzione del contatto tra il potere centrale e i poteri locali, e quindi ne parlarono effettivamente Scalfaro, lui e Spadolini, sul riferimento appunto del Presidente del Consiglio Ciampi di allora, che effettivamente erano fortemente, temevano un colpo di Stato. Ora questo all'epoca io ricordo che non venne fuori in maniera così chiara, forse lo hanno fatto giustamente perché i cittadini già erano terrorizzati dalle varie stragi che erano avvenute e non volevano ulteriormente creare allarme, però adesso oggi ci ha confermato che temettero veramente per il colpo di Stato. Questo, diciamo, è uno dei pochi elementi nuovi che è venuto fuori oggi. Per chiudere, avvocato Giovanni Rofarulla, lei come avvocato di parte civile del Comune di Palermo, che conclusioni trae da questa udienza? Ma le conclusioni che traggo è che mi piacerebbe che ci fossero meno prerogative in Italia e soprattutto più garanzie per la stampa e per i cittadini. Io credo che oggi i cittadini avessero tutto il diritto di essere portati a conoscenza del contenuto di questa udienza nell'immediato e direttamente, perché le trascrizioni, per carità, diranno esattamente alla parola quello che è stato detto, però nelle trascrizioni non ci sono le emozioni, non ci sono, diciamo, no, non ci si rende conto in maniera piena di quello che effettivamente si è detto ed è accaduto. Io la ringrazio, avvocato Ero Farulla. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. Grazie. Allora, leggo un altro vostro messaggio prima di prendere questa piccola pausa su la consultazione online del Movimento 5 Stelle a proposito di unioni civili. Franco scrive: penso che vi siano problemi ben più impellenti che le coppie omosessuali, mentre Elena dice certamente ne hanno diritto i gay alle unioni civili. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Adesso riprendiamo un po' il filo delle notizie. Abbiamo parlato prima della trattativa Stato-mafia, ci sono molti altri argomenti e ancora i vostri messaggi su un tema che tratteremo invece dopo, quello sulla consultazione Movimento 5 Stelle online che si è chiuso alle 19 circa, le unioni civili, siete favorevoli o meno per quanto riguarda le unioni tra le persone dello stesso sesso. C'è stato un plebiscito dei sì e ci sono i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure anche al 349 238 66 66. Ma ricapitoliamo la giornata. Il processo per la trattativa Stato-mafia. Napolitano risponde a tutto in 3 ore, dice mai saputo di accordi indicibili e auspica la massima trasparenza. Legge di stabilità, nessuna bocciatura per l'Italia da parte dell'Unione Europea, che si riserva un giudizio più approfondito a novembre. Expo, le mani dell'Andrangheta sugli appalti, 13 arresti, la PM Boccassini commenta: non è cambiato nulla. E poi le unioni civili, l'abbiamo detto, il calcio, nessun calciatore italiano in corsa per il pallone d'oro 2014 e il rapporto Svimez, al sud più morti che nati, non era così dal 1861 e di questo parliamo. Insomma, un rapporto che fornisce dei dati piuttosto allarmanti, questo rapporto Svimez 2014. Svimez è l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Nel 2013, dicevamo, al sud ci sono stati più morti che nati, come al tempo della Grande Guerra. Al sud i decessi superano le nascite che nel 2013 sono state 177.000, è il numero più basso dal 1861, niente poco di meno che dall'Unità d'Italia, quindi. Poi ci sono note dolenti per il sud che riguardano anche il PIL, il prodotto interno lordo, l'occupazione. Il lavoro al sud è sempre più un miraggio, tanto che nel 2013 il numero degli occupati nel Mezzogiorno è sceso per la prima volta nella storia sotto la soglia dei 2 milioni. Non parliamo poi dell'occupazione femminile. E addirittura si parla in questo rapporto del rischio per il sud nei prossimi anni di uno stravolgimento demografico, uno tsunami dalle conseguenze imprevedibili. E così Adriano Giannola, presidente di Svimez, buonasera. Buonasera. È così preoccupante quindi il quadro, la situazione per il Mezzogiorno? Sì, è preoccupante. Devo fare una piccola correzione. Prego. Sul numero degli occupati. Spero in meglio. Al di sotto dei 6 milioni, no? 2 milioni sarebbe terribile. Ah no, ho avuto. No, ma me lo sono riportato 6 milioni e poi sa ogni tanto qualche svista. Abbassamento di. No, è importante perché sarebbe troppo allarmante. Ecco, sì, decisamente. Anche se questo, però, anche se il quadro che voi avete presentato è allarmante, insomma. È allarmante ed è un quadro che non è nuovo, quindi è utile che ci sia una presa di coscienza di un problema che da almeno 5 anni stiamo, come dire, gradualmente seguendo nella sua, chiamiamola, degenerazione, perché una cosa è la crisi congiunturale, una cosa è l'avvitamento verso processi strutturali che poi mettono in forse la capacità di riprendersi, come noi tutti ci auguriamo già da quest'anno, dall'anno prossimo, e mettono in forse anche la capacità nazionale di far fronte a problemi che al sud emergono con tanta gravità, ma che non è che non lambiscono anche il nord. Comunque la questione meridionale si trascina, lo sappiamo, da decenni, ma evidentemente con la crisi si è aggravata, cioè le due Italie che esistono ormai da troppo tempo si dividono, si allontanano sempre di più, seppure anche il nord, il centro-nord sappiamo è in crisi, però forse è il mezzogiorno è un po' sparito, naturalmente non da oggi, non da questo governo, però dall'agenda politica e di governo. Questa è una sensazione, più di una sensazione, è una constatazione che purtroppo risale alla fine degli anni 90, quando si cominciò a inaugurare una ideologia di una politica dei fondi strutturali europei che doveva essere aggiuntiva ed è diventata sostitutiva delle politiche nazionali e che ha, come dire, minato sostanzialmente alcuni meccanismi e ha fatto anche degenerare alcune caratteristiche nella società del Mezzogiorno che hanno contribuito anche queste a rallentare tutto. Quindi credo che sia salutare oggi prendere atto che i problemi ci sono, che sono grandi, che i rischi sono di prospettiva altrettanto grandi. Ma come noi insistiamo anche qui da anni a dire, le opportunità ci sono e sono grandissime per rimettere in piedi l'Italia attraverso una rigenerazione dell'economia del Mezzogiorno, che è una delle grandi, forse la più grande opportunità per riprendere non a crescere, perché la crescita che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni è stata una stagnazione, ma riprendere la via dello sviluppo, che è tutt'altra cosa della crescita, e che vuol dire scelte precise, volontà, programmi, progetti e esecuzione di questi. Secondo lei si tratta più di un rilancio, se fosse possibile, di uno sviluppo industriale nel sud o, come se non sbaglio ha detto il presidente dell'Assoturismo, di rilanciare il turismo, perché poi il nostro sud, si sa, sarebbe bellissimo, ci sono tante parti di costa molto belle, ce l'invidiano anche all'estero, anche se poi insomma il degrado, la speculazione edilizia, l'inquinamento sicuramente hanno peggiorato la situazione nel corso degli anni, ma su cosa punterebbe? Ma guardi, oggi è una situazione diversa dal passato, non possiamo parlare di segmenti o di settori, noi pensiamo e l'abbiamo detto con convinzione che le strategie sono interconnesse tra di loro, in particolare se vogliamo il leitmotiv generale è che l'Italia, quindi noi nel giorno, sia comprenda che il suo ruolo nel Mediterraneo, che la nostra grande opportunità è il ruolo che il Mediterraneo ha ripreso dopo secoli ad avere grazie ai nuovi paesi, alla Cina, l'India e così via, come luogo principale dei traffici e i cui benefici stanno andando tutti, passano per Suez, vanno a Gibilterra e approdano a Rotterdam, ad Amburgo e poi da lì scendono verso sud. Ecco, noi dobbiamo capire che l'Europa deve avere una grande accessibilità da sud, dal Mediterraneo, e questo vuol dire porti, retroporti, imprese, eccetera, eccetera, così come in qualche modo si è, per così dire, alimentato il nord Europa di questi tempi. Quindi noi dobbiamo essere capaci di creare questa unione euro-mediterranea, nell'Unione Europea, che ribilanci quello che si chiama il Southern Range rispetto al Northern Range che attualmente guida la danza. E questo sembra una cosa molto fantasmagorica, ma una cosa molto semplice, è la grande logistica, politiche energetiche, la sostenibilità ambientale, tutte cose che nel Mediterraneo, nel sud dell'Italia, che soprattutto dovrebbe essere la leader nel Mediterraneo, trovano le massime opportunità. Quindi non è né industria ma è industria, non è turismo, ma è anche turismo, è rigenerazione urbana, le famose smart cities. Noi abbiamo oggi le nostre aree metropolitane del sud che si spopolano e si degradano, dobbiamo invertire queste tendenze. Beh, io la ringrazio Adriano Giannola e speriamo che ogni tanto questi rapporti rinfreschino un po' la consapevolezza della situazione del nostro sud. Grazie ancora, buona continuazione, viabilità. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Spazio l'Europa. Europa 24 notte. L'Europa è pronta a rafforzare il suo impegno per la riduzione dei gas a effetto serra, ha dichiarato Connie Hedegaard, che è la commissaria europea responsabile dell'azione per il clima, commentando i dati pubblicati oggi dalla Commissione europea insieme all'Agenzia europea per l'ambiente. Nel 2013 infatti le emissioni dell'Unione europea sono diminuite dell'1,8% rispetto al 2012 e hanno raggiunto il livello più basso dal 1990. Pertanto l'Unione europea, secondo la Commissione, non solo è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo fissato per il 2020, ma è anche sulla strada giusta per superarlo, per raggiungere almeno il 40% di tagli entro il 2030, così come previsto dall'accordo sottoscritto da tutti i 28 paesi proprio la scorsa settimana. Un pacchetto che avrà impatti e ricadute soprattutto sulle imprese, che dovranno assicurare che gli obiettivi di sostenibilità ambientale siano perseguiti senza pregiudicare la competitività. Sentiamo allora qual è il giudizio delle imprese italiane. Gaetano Maccaferri, vicepresidente di Confindustria, con delega alla semplificazione e all'ambiente, al microfono di Alessandra Schepisi. Il parere di Confindustria è sostanzialmente positivo, perché si è raggiunto quello che per noi era l'obiettivo principale, cioè quello di avere un unico obiettivo vincolante, quello della riduzione delle emissioni, lasciando ai singoli governi nazionali la scelta flessibile sulle tecnologie da adottare per raggiungere questo obiettivo. Questo è un aspetto positivo, perché appunto consente alle varie realtà nazionali di agire tenendo conto di quelle che sono le concrete situazioni. Quindi un giudizio positivo, ma concretamente che cosa può cambiare per le industrie italiane? Quali ricadute possono esserci? Sicuramente per l'industria italiana l'impegno è importante, perché comunque parliamo per i settori industriali di una riduzione del 43% delle emissioni, per cui l'impegno è importante. È necessario che questo impegno sia accompagnato a livello europeo da meccanismi, misure che evitino la distorsione nella competizione a livello europeo, per cui è necessario che esista un terreno di gioco comune per tutti gli operatori europei, e questo richiederà interventi. E soprattutto questo discorso andrà fatto a livello globale, perché la situazione della competitività a livello internazionale è molto differenziata. In questo senso c'è una scadenza, che è quella della conferenza di Parigi del 2015, che potrà essere il momento veramente per ristabilire auspicabilmente le condizioni di equità sul mercato internazionale. Per evitare una perdita di competitività, lei diceva, se c'è un terreno comune sia a livello europeo sia a livello globale, come dire, anche la difesa del clima e dell'ambiente possono essere comunque un fattore di competitività e non essere penalizzanti, no? Diciamo che possono essere un fattore di crescita. Sicuramente sono impegni che in qualche modo penalizzano la competitività, per un verso o per l'altro, non c'è dubbio. E in questo senso grande attenzione a mantenere le misure che già sono in campo oggi per le industrie energivore, per evitare appunto che fenomeni delocalizzazioni che sarebbero altrimenti inevitabili. E questo è un fatto. Dal punto di vista delle opportunità è evidente che, siccome buona parte degli interventi verranno fatti sull'efficienza energetica, questo è un settore nel quale sia nell'industria sia negli altri settori ci saranno opportunità di crescita importanti. C'è stata, come lei sa, una posizione piuttosto dura da parte degli ambientalisti, che hanno sostanzialmente bocciato questo accordo, hanno detto che metterebbe un freno alle rinnovabili, terrebbe l'Europa ancorata a carburanti costosi e inquinanti, valutano anche una perdita di parecchi, insomma centinaia di posti di lavoro per quanto riguarda mancato raggiungimento degli obiettivi in tema di rinnovabili. La nostra posizione, come detto, è che sicuramente noi siamo favorevoli alle politiche per contrastare i cambiamenti climatici. È evidente che queste politiche vanno comunque contemperate con le esigenze dello sviluppo, della crescita della nostra economia. In particolare vanno, credo, coniugate con quello che a livello europeo sono gli obiettivi che si è data l'Unione Europea con il cosiddetto Industrial Compact, che prevede di raggiungere che il 20% del PIL sia prodotto dall'industria manifatturiera. Oggi siamo a circa il 15%. Questo va fatto evidentemente tenendo conto dei presupposti di contenimento dei cambiamenti climatici, anzi proprio il contenimento dei cambiamenti climatici può essere un'opportunità, come dicevo, di ulteriori crescite in settori e tecnologie molto avanzate. Teniamo conto comunque che l'Unione Europea oggi contribuisce per l'11% alle emissioni globali. Siamo quelli che comunque hanno fatto dei passi avanti più grandi e con questo progetto portiamo dal 20% al 40% l'obiettivo di riduzione di emissioni, per cui è un progetto comunque ambizioso. E chiedo scusa a questo punto al senatore Alberto Airola, capogruppo del Senato del Movimento 5 Stelle. Buonasera, senatore. Buonasera. Speravo di avere più tempo, ma tra il carico pubblicitario e alcuni ospiti che sono andati un po' oltre i tempi, abbiamo soltanto un minuto, o poco più, un minuto, sì, per questa consultazione online che avete fatto sulle unioni civili e per parlare dei risultati. Prego, senatore. Ma sono contento, purtroppo è stata una consultazione fatta su un testo che è stato messo in calendarizzazione molto di corsa dalla Commissione Giustizia al Senato. Sicuramente il dibattito sarebbe stato da ampliare anche al matrimonio, agli altri paesi europei in cui ci sono altri istituti anche più garantisti, no? Rispetto ai diritti delle coppie omosessuali, però un passo in avanti, un passo importante. Ora restiamo a vedere se questa maggioranza non si farà spaccare, se non è una manovra ipocritamente politica per spaccare la maggioranza da una parte e dall'altra, e se finalmente in Italia ci avvicineremo un pochino di più, insomma, in Italia agli altri paesi europei, ai livelli di diritti, insomma, che ci sono un po' dappertutto e che da noi mancano da anni. Da voi un plebiscito di sì su 25.268 iscritti che hanno votato, 21.360 hanno votato sì, solo 3.908 no, quindi almeno i vostri sostenitori sono favorevoli. Adesso, oltre al PD, che dovrebbe muoversi su questa cosa, diceva prima Guerini, anche Berlusconi sembra molto aperto, vediamo, insomma, ci sarà modo di risentirci, però, senatore Airola. Guardi, lo spero vivamente, perché è una tematica che va approfondita, bisogna fare informazione e cultura, perché in Italia abbiamo, oltre alle leggi, bisogno anche di questo. Grazie Airola, grazie, buon lavoro anche su questo, noi ci sentiamo tra poco.